accompagnati dal suono della consueta sigla, inizia anche oggi, mercoledì 3 dicembre, la consueta rubrica di libri. Iniziamo dalla classifica. La narrativa italiana vede tra i libri più venduti, come sempre, Il nome della rosa di Umberto Eco. Seguono Saviane con Getsemani, Cassola con Ribelle, Arpino con Fratello Italiano e c'è un recupero di Guareschi con Gente così. In narrativa straniera, Le Carré, probabilmente sull'onda del successo di La Talpa, presenta Tutti gli uomini di Smiley. Poi c'è Singer con Vecchio amore, che è I padiglioni lontani, Segal, Un uomo, una donna e un bambino, S con Gertrude, Erika Jong con Fanny e altro, sempre continuando con le donne, c'è anche Simone de Beauvoir con Lo spirituale di un tempo. In saggistica torna la Elena Giannini Bellotti con Prima le donne e i bambini, Biagi col suo Inghilterra, Gervaso la mosca al naso, una serie di interviste, Amendola un'isola e Asimov catastrofi a Celta. Ancora molto venduto è From con L'arte di amare, Castronovo l'industria italiana dall'Ottocento ad oggi editore Mondadori e Colletti tramonto dell'ideologia. Tra le varie, vendutissimo Il calendario astrologico di Lucia Alberti e Respubblica, una raccolta di vignette di Forattini. Un po' di musica, vi dico subito che la musica di oggi è tratta da un LP di Angelo Bertoli abbastanza sconosciuto, perché raccoglie tutte le canzoni in dialetto modenese del cantautore. Canzoni che tra l'altro sono molto interessanti musicalmente, anche se il testo ovviamente non è possibile apprezzarlo appieno, data la lingua, che però essendo relativamente vicina alla nostra è possibile ugualmente comprendere. Iniziamo quindi con la prima canzone. Integración per dimagrir, chi disca che da per gli sacrifici, chi fa solo gli interessi di padron. Astisca Gesù Cristo morto dal fred. Asperla sempre ristrutturación. E te che il testo di questa Le processioni di Angelo Bertoli, perché è abbastanza interessante. Dice: una volta si tirava avanti mangiando saracche, ci facevamo i materassi con le pannocchie di grano turco, ci passavano patate con patate. per lavorare andavamo in processione. Adesso che ci siamo fatti sindacati ed abbiamo una fetta di carne da mangiare, ci dicono che siamo grassi come preti e vogliono farci smettere di lavorare. Inventano una crisi che non esiste, la cassa integrazione per dimagrire, poi dicono che bisogna fare dei sacrifici che fanno soltanto l'interesse dei padroni. Dicono che Gesù Cristo è morto di freddo. Si parla sempre di ristrutturazione e noi dobbiamo crederci, ma non vedi? Non ci sono più i preti, però ci sono le processioni. Il testo di questa canzone era di Angelo Bertoli e la musica era di Borghi. Sentiamoci anche la seguente, L'Erminia ai tempi indietro. A dove sta le trasire, terle da per te. Guarda in la ghegna foto, mi ha detto. Cosa vuol da me? Ma guarda che un vuoi, ma son passè perché, alla morte tre datori, non posso un cades. Ben a posa in crede, ma des va via det che, tot quel che mi fa patir, tasse mi te che ne, et me mule alla guasa, tente più fa sentir. A destra in vento avanti, manca avanti ogni indadir. Arcorde traga sola dal nostro pre, la vedrete sala a sveina al can di fre. Se da chi durò, non deve fer la mor, quando galeva il sol. Senza tal pensier, arcorde fuera del. Mi pede e che avresti dal gatto a ple al disse un bon danin che te un rovina ca le noti che te muer e fatto un po' più là avvenimento adesso che te sempre pe o non ti se va meglio pure a te ne tre e a Laura te un testão te mi po' mia mulè. Almeno va più avanti, chi le senda con te. Arcorde dai, arcorde al nostro pre, la vedre la sala, a sveina il can di pre. Sette chi durò, quando è una perla mor, quando caleva il sol. Senza tanto in sé, arcorde sera bel. Arcorde dai, arcorde dal nostro pre, la da sala a svegno il can di pre. Sete chi durò, donde una per la mor, quando caleva il È molto bella questa canzone di Angelo Bertoli, L'Erminia ai tempi indre. Questa è una trasmissione, chiamiamola culturale, e voglio leggervi il testo di un'intervista, è breve, rilasciata da Norberto Bobbio a Lietta Tornabuoni su Intellettuali e Potere. Lietta Tornabuoni domanda a Norberto Bobbio dicendo: il potere mostra oggi la sua faccia peggiore, qual è il suo sentimento di intellettuale di fronte all'Italia degli scandali? Teniamo presente anche questo, io ho annunciato che avrei parlato del terremoto, in effetti questo però lo sto dicendo io, non lo dice Norberto Bobbio chiaramente, e trovo che il terremoto tutto sommato sia venuto a puntino per fare dimenticare tutta una serie di cose, mi auguro che questa serie di cose non vengano del tutto rimosse e che si torni a parlare anche di altre cose. Dice: il potere, ripeto la domanda di Tornabuoni, mostra la sua faccia peggiore, qual è il suo sentimento di fronte all'Italia degli scandali? Indignazione. Questa società italiana pare putrefatta e moralmente fiacca. Tutta. Non soltanto il governo e il sottogoverno. Tra chi sta dentro il palazzo e chi sta fuori c'è una corrispondenza. Non che io sia molto sorpreso. La corruzione dei politici e dei loro managers è una costante della vita politica italiana e forse non soltanto italiana. Nasce soprattutto dal bisogno di procurarsi l'enorme quantità di soldi che i partiti e le loro correnti divorano. Coinvolge tutti o quasi, creando una ragnatela di reciproci ricatti. Di fronte a questa realtà, un intellettuale, e aggiungerei io non solo un intellettuale, ha più netta e deprimente la sensazione della propria impotenza. Soprattutto noi, che non siamo dentro la politica, abbiamo l'impressione di non poter fare nulla, non abbiamo rimedi da proporre, non contiamo niente, non abbiamo nessun potere. Nessuno. Ci sono vari poteri: il potere politico-militare, che usa la forza per esercitare l'impero sugli uomini; il potere economico, che usa la ricchezza per esercitare il dominio sulle cose e comprare gli uomini; il potere ideologico, che usa le idee per persuadere gli uomini, influenzare l'opinione pubblica e quindi i comportamenti. Quest'ultimo è il potere più debole nelle società pluralistiche, mentre nelle dittature politico-religiose le idee si impongono alle masse incardinandosi su valori tradizionali, venendo assunte dal potere politico ed esercitate monopolisticamente come ideologia ufficiale, dominante ed esclusiva. Ciò che oggi mi fa dubitare del potere intellettuale in una società pluralistica è aver visto cadere in questi anni uno dei miti democratici, quello della pubblica opinione. La democrazia è il governo della pubblica opinione. Questo è il concetto fondamentale ben radicato in base al quale giudichiamo la democrazia una forma di governo superiore alle altre. Ma in Italia la pubblica opinione ha scarsissimo peso. La libertà di stampa c'è. La stampa continua a esercitare la critica e il controllo sul potere, a denunciarne le colpe. La pubblica opinione si forma. Con quale effetto? La classe al potere non ne tiene conto, non perché sia distratta, ma perché può fare a meno di tenerne conto. Il gruppo governante seguita a fare ciò che ha sempre fatto con perfetta indifferenza. La sua capacità di mantenere il potere a dispetto della pubblica opinione è stupefacente. Gli scandali non gli fanno né caldo né freddo. Come è accaduto con le innumerevoli rivelazioni e denunce portate contro la mafia, la denuncia di inefficienza, le accuse o le prove di corruzione non hanno sortito alcun effetto, non hanno minimamente modificato i comportamenti del gruppo governante, non ne hanno scalfito il potere. Continua a fare i propri comodi, a mal governare e ottenere ugualmente il consenso. Quando arrivano le elezioni, nonostante tutto, la gente non diserta le urne come succede in America o in Svizzera, va a votare e continua a votare per i partiti per cui è sempre votato. Allora, domanda la Tornabuoni, tutta la tradizione liberale considera che in una società l'importante sia la libertà di espressione, che l'arbitrio del potente si arresti davanti al controllo democratico. Adesso ci rendiamo conto che non è vero. Anche se le nostre libertà oggi sono diminuite, sostanzialmente restiamo un paese libero, ma il potere arbitrario si esercita ugualmente, sicuro di sé e tetragono, senza sentirsi condizionato dalla critica. La libera critica non ha più effetto. La pubblica opinione conta meno di quanto si fosse immaginato alla fondazione dello Stato liberale. Conta molto poco, e l'unico potere dell'intellettuale è quello di contribuire a formare la pubblica opinione. La mia frustrazione e depressione deriva dal constatare che il potere intellettuale è diminuito rispetto ad un passato in cui il potere politico era meno ramificato, più controllabile e rispetto alle speranze. Quali speranze? Negli anni del fascismo provavi la frustrazione del silenzio coatto, del non poter parlare, ma avevi anche la speranza che si aprisse un avvenire alla libertà, che quando si fosse potuto parlare, il parlare avrebbe dato un gran risultato. Nella democrazia hai potuto parlare, ma la parola è rimasta chiusa nella sfera della pubblica opinione, che incide troppo poco sulla libertà. Sono due forme diverse di frustrazione e, pensarci bene, la più grave è la seconda, che è quella attuale, perché non ti dà speranza. Chiede ancora la Tornabuoni. Il potere intellettuale non si esercita nella società anche in forme diverse dal controllo critico sul gruppo governante? L'intellettuale educatore è sminuito, risponde Bobbio. È così difficile capire cosa davvero si trasmette. Il patrimonio di idee e conoscenze che si può trasmettere nelle società libere è minore rispetto alle società di tipo tradizionale. Le fonti di informazione dei giovani si sono moltiplicate, la loro socialità si è allargata, la parola del maestro non è più univoca e non è sempre autorevole. L'intellettuale, consigliere del principe, fornitore di idee del potere politico, ha pure perduto valore. Nella gestione contemporanea di società sempre più complesse e ramificate, l'intellettuale, di cui il principe si serve, è piuttosto il tecnico, lo scienziato, l'esperto, colui che ha competenze settoriali. Uno che pone la capacità professionale al servizio di un progetto alla cui elaborazione magari non ha partecipato, di cui spesso persino gli sfugge la visione generale o il fine. E anche la invocata competenza del tecnico non viene utilizzata quando, come capita sovente, risulta in contrasto con l'esigenza o le convenienze politiche. L'intellettuale, come creatore di grandi sintesi, di ideologie che anticipino un futuro ipotizzabile, è inattuale. Il liberalismo è sfociato nel conformismo della società di massa, il socialismo è sfociato nella società sovietica, il nazionalismo è sfociato nel fascismo e nessuna ideologia ha sostituito queste tre con pari forza. Oggi la società industrialmente avanzata è più sofisticata, più colta e diffidente, non accetta un'unica ideologia dominante, prevede diverse ideologie conviventi. C'è rimedio? Il rimedio sarebbe non limitarsi al piccolo cabotaggio dello sdegno, ma saper suscitare nuove passioni, nuovi ideali, saper creare nuove grandi idee. Non è cosa di tutti i giorni e, francamente, la mia impressione è che non ci sia all'orizzonte nessuno che abbia questa energia. Ma non diamo poi troppa importanza alle frustrazioni per l'inconcludenza del nostro mestiere. La verità è che le grandi trasformazioni sociali avvengono con lentezza, per ragioni economiche e di costume, indipendentemente dai predicatori intellettuali, o almeno non soltanto grazie a loro. Caro amico, sei messo male. Sei vittima di un tempo un po' sbagliato, un tempo dove tutto si è appiattito, dove ciò che aveva un senso si è deteriorato. E se ti viene qualche idea geniale, buttala via. Perché qualsiasi comportamento c'ha già il suo riferimento all'idiozia. Non è più il momento di fare lunghe discussioni, di fare ipotesi sociali o confessioni personali. Non è più il momento di fare inutili teorie e di cantare una canzone o di comprarsi un cane. Non è più il momento di fare tristi seminari, di scrivere sui muri, non ha più senso neanche la follia. Non è più il momento di dedicarsi ad una donna o a qualcos'altro di importante. Non è più il momento per niente. In mezzo a tanta confusione sono affogate le tue idee. È come chi è stato tradito da una donna per bene. Tu ora pensi che tutte le donne siano puttane. Disossata, già in attesa di morire. No, non fa male credere, fa molto male credere male. Però fa un certo effetto ritrovarsi a ricordare. E più che altro a dire che era molto meglio qualche anno fa. Non è più il momento di generose aggregazioni, di noiosissime riunioni, né di analisti né di fantasia. Non è più il momento di aver fiducia nei contatti, di ritentare la comune e di dare del tu a tutti. Non è più il momento, c'è solo un po' di nostalgia, stava per nascere qualcosa, la nostra rabbia era allegria. Per tenerci in vita ci bastava una cazzata, non si sa perché improvvisamente non è più il momento per niente. Quella magnifica illusione non era mica un'idiozia, e tu che sei stato tradito nella tua aspirazione, ora pensi che tutte le idee siano coglione. Razza già finita, senza neanche cominciare, razza disossata, già in attesa di morire. No, non fa male credere, fa molto male credere male. No, non fa male credere, fa molto male credere male. Avrete capito che era Giorgio Gaber dal suo ultimo LP Pressione Bassa con Questa non è più il momento. Sembra davvero non essere più il momento di niente, e lo conferma anche Bertoli, che pure almeno una fede la conserva ancora con questa Rocca Blues, di cui vi voglio leggere prima le parole. Rocca era un centro culturale e quelli che ci stavano erano tutti uguali e andavano sotto il portico a chiacchierare, e neanche i morti li andavano a disturbare. Sul tavolo sotto al portico c'era quasi sempre un fiasco di buon vino. Sassuolo è una città internazionale, la gente ha fatto i soldi con le piastrelle, i tempi sono cambiati, cambia sempre il posto dove stai. Una volta i ladri li mandavano al bagno penale, adesso invece li chiamano industriali. Rocca, Rocca, dove sei tu? Una volta, quando andavamo a fare l'amore, andavano a fare un giro dietro al lavatoio, adesso che si sono accorti che esistono le cambiali, vanno a fare l'amore lungo il viale. Le donne non si voltano nemmeno se fai il pagliaccio, vogliono l'automobile a 34 piazze. I ragazzi di una volta, è naturale, andavano a caccia di lucertole, adesso al posto del piatto di maccheroni vogliono tutte le settimane mezzo milione. Fortuna che hanno trovato chi glieli può dare, sfruttando la gente che va a lavorare. I sindaci, eletti dai lavoratori, hanno fatto in 24 anni i pisciatoi, e quelli della giunta, che sono tutti bravi e buoni, hanno fatto di riffo di raffa tutti i milioni, per non parlare dei preti e dei bigotti che devono ancora fare qualcosa di buono. Adesso Rocca è tutto cambiato, dicono di averlo rimodernato, però purtroppo sono tutti un mucchio di bifolchi, e gli hanno portato via persino il santo tronco, e persino la Madonna che stava sotto al portico l'hanno portata da un'altra parte. La Rocca era un centro culturale, e qui che ste venire in tutto quel, io andavo sotto al volto una cigaretta, e neanche i morti non la disturbavano. Insieme al teve il sette dal volto, a che era quasi sempre un buon pistone. Sassuolo è una città internazionale, la gente l'ha fatti love col mattone, i tempi per Carlo che è in passè, e cambia sempre al sito che te stè. Una volta i ledri andavano al bain penel, adesso invece i ciam industriel. Rocca, Rocca, dove sei tu? Rocca, Rocca, Rocca Blues. Una volta quando andavano a fare l'amore, andavano a fare un giro tre al lavador, adesso chi sei la corca che cambia? Ti vanno a fare l'amore alla caldiera, e te li svolte niente se fai il paias, ti vuole l'auto 34 pias. Il ragazzo una volta è naturale, che andava sempre a casa del Sinter, adesso al posto al piatto di macaron, i volenti tutti il smano un bel migliore. fortuna che han trovato chi chi polder, sfruttando la gente la va a lavorer. Rocca, Rocca, dove sei tu? Rocca, Rocca, Rocca Blues. Mi sento che ha messo il lavoratore, in 24 anni han fatti pisador, e qui la sonda che entra di bombo, che han fatto trippo trappo di milioni. Per un parer di prete i catubon, chi ha anche ne va a fare qualcosa di buon. Adesso ero caletto qual cambiere, e tu chi l'altro qui moderne, però purtroppo è tutta una massa di piove, il volentore fino al Sant'Etron, e fino alla Madonna dal Vulton, il lancio per lo so e cambia canton. Rocca, Rocca, dove sei tu? Rocca, Rocca, Rocca Blues. Pierangelo Bertoli, Rocca Blues. Si chiude così la trasmissione di oggi, invitando appunto a non dimenticare che in fondo dietro i terremoti, che vengono considerati una fatalità, ci stanno delle inadempienze umane che da troppo appunto sono lasciate lì senza provvedere. Non parliamo dei discorsi scientifici troppo difficili e dei solo 6 geologi di Stato, non parliamo neanche della legge del 1970 citata da Pertini, non ancora approvata dopo 10 anni, parliamo magari del discorso di Pertini che, quasi come fosse estraneo alla cosa pubblica, ci è venuto a dire che fino adesso non si è fatto niente e che si spera che stavolta le cose vadano diversamente. Non si vede come le cose potranno andare diversamente finché ci saranno i problemi che ho già detto, ma d'altra parte finché la gente non ne prenderà coscienza, e leggendo è probabile che questo possa in qualche modo servire, se non altro a prendere la coscienza, e poi dopo si tratta di prendere qualche cosa d'altro dopo la coscienza, dicevo, speriamo che tutto questo non ci faccia dimenticare le inadempienze ormai secolari. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento a questa rubrica la prossima settimana, mercoledì alle ore 19, e vi saluto da Radio Alto Ferrarese, 92.900 e 98 MHz, da Bondeno, provincia di Ferrara, che trasmette tutti i giorni dalle 14.30 alle 23.30 e il resto del tempo è collegata con Radio L di Ferrara. A risentirci.